Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È il secondo volume della settimana di Eclettica, in compagnia di Giulio Caperdoni, che risponde, ed è vero che risponde, all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. E trovate altre informazioni, sempre per rimanere sul tema internet, su myspace.com/eclettica, comprese quelle del podcasting. Fermati un attimo e siediti. Devo raccontarti una storia. Una storia cominciata molto tempo fa, in un luogo dove la vita si svolgeva sottoterra e le alienazioni si coltivavano come gerani. Tempi bui, in cui la scintilla alla base della vita non produceva più nessun calore. Tempi avari di emozioni e sentimenti. Tempi in cui cinque amici, giovani ed incoscienti, camminavano fianco a fianco al disagio. Tempi in cui l'alcol scorreva come fiume in piena dove questi nuotavano senza meta. Tempi in cui la saggezza non era che un astrattismo fine a se stesso e la storia studiata a scuola non combaciava con i racconti degli anziani. Avrai già sentito decine di racconti sull'argomento, ma questo è il racconto e questo è il momento giusto. Porta pazienza dunque e rilassati. Non ti ruberò più di qualche ora. E cosa vuoi che sia adesso che il tempo è nostro alleato? Il linguaggio non sarà dei migliori, ma andrà maturando con lo svolgersi del racconto, proprio come successe ai protagonisti. Verso la fine potresti quasi trovarlo accettabile. Verso la fine capirai perché questo è il momento giusto, capirai perché nulla non debba mai essere affidato al caso, anche se sono sicuro che tu questo l'abbia capito, molto, molto prima di me. Sbrighiamoci dunque, perché non possiedo che una scatola di tabacco e senza berne il fumo, il racconto potrebbe risultarne confuso. Non lasciate ingannare se le mie pause dovessero farti credere che io sia volato tra le braccia di Morfeo. Ciò non accadrà. Terrò gli occhi chiusi, è vero, ma solo perché mi è difficile tornare su vecchi sentieri persi nella memoria. Non voglio che il presente contamini in qualche modo i posti in cui sto andando. Questo era l'incipit di Mitote, di Patrizio Pinna. be my FNGs. Morning, sir. Oh, get your hands down. Do not salute. There are goddamn snipers all around this area who love to grease an officer. Untouchable. avevo aperto con Polly Posma e dopo quello che avevo detto non potevo quest'oggi non aprire con Soul Sappy, una sorta di par condicio al femminile. Poi abbiamo proseguito con i Cajun Dance Party, sicuramente una delle formazioni più interessanti di quelle nuove, nel loro caso nuovo e adattissimo, visto che sono un gruppo di sedicenni e diciassettenni londinesi, nonostante il nome sembra tradire qualche origine della Louisiana, che però non c'è. Cajun Dance Party che lasciano lo spazio ad un'altra interessante novità. All'interno di Eclettica è il momento di una formazione di New York, di Brooklyn, per la precisione loro si chiamano Bishop Allen, se usate la formula breve, Bishop Allen and the Broken String, se usate la formula lunga, usciranno il 24 di luglio su una nuovissima etichetta, la Dead Oceans, con un album dal quale abbiamo la possibilità di ascoltare in anteprima Rain. Big gums, sir. Yeah, well, you better tuck that in. Gonna get that caught on a tripwire. Some things will never change. folks. We laughed and we told jokes. It was like we were young again. On that deathbed our mother lay. How long she's got they still can't say. Took all this to get us back together again. How long is this gonna last? You can't keep reliving your past. I know there's better brothers, but you're the only one that's mine. On his face, gonna give you up. Oh, that he sure as hell. But I take one look at him, and I know I never tell. So go raise another pine, rev up the engine, drive off in the night. See you somewhere, someplace, sometime. I know there's better brothers, but you're the only one that's mine. Doors down, but I won't say a word. They can knock all of my doors down, but I won't say a word. 14 years have passed since that day, but still nothing has changed. Passeggiavamo per i giardini pensili del terzo livello. A causa di una vecchia questione di ozono succeduta alla battaglia dei due imperi, la vita si svolgeva completamente sottoterra. Non che questo fosse un problema. Sottoterra c'eravamo nati, ma i nostri occhi, alla luce artificiale, non brillavano affatto. Il mondo era arrivato al limite, la soglia del non ritorno era lontana, oltre l'orizzonte alle nostre spalle. Mai l'uomo, durante le varie epoche, si era spinto così lontano. Tutto il pianeta trasudava una sensazione di fragilità, di stanca indifferenza e di stacco. Tutto il pianeta incuteva timore, con le sue insegne colorate, i cunicoli e i pavimenti di plexiglass, con i suoi condizionatori, le fibre ottiche, l'aria stantia di disinfettante e di distributori automatici di cibo cinese. Tutto dava l'impressione di poter esplodere da un momento all'altro. Eravamo al limite. «Ehi là, anche voi in Mesopotamia?» chiese Antonio, puntuale all'appuntamento. «Vai a quel paese, Anto», rispose Fede. «Hai trovato piuttosto la password per quel cavolo di frullatore?» «Già», continuai. «Dobbiamo riuscire a rubare i biglietti entro dopodomani se vogliamo arrivare a Mitote nei tempi stabiliti». Negli ultimi 40 anni eravamo riusciti a riprodurre l'atmosfera terrestre su vari pianeti e ognuno aveva le sue peculiarità. Marte era diventato, grazie al clima e alla sua fertilità, un'enorme serra che forniva alla Terra ogni sorta di vegetale. Nucleo 1, sempre ricoperto di neve, era la meta più ambita dei Master, la cosiddetta classe dirigente, gli unici capaci di affrontare 2 giorni di viaggio interplanetario per uno di sci. Black Ring, il più vicino alla Terra, 3 ore di taxi shuttle, era la capitale del divertimento,